Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Fino alle 9:30 saremo qui con voi, caro Oscar. Eccoci. Eccoci. Buongiorno. 27 giugno. 27 giugno. Non è San Pagonino, è un tempo, ai tempi dell'Italia, in cui le cose erano meno parapigliose, il 27 di ogni mese, lo sai che ragioni per ah, l'altro. Certo, ormai, il giorno li paga. Oramai quando ti pagano non si sa, no vabbè sto scherzando, comunque oggi San Cirillo di Alessandria, auguri a tutti i Cirilli, patriarca di Alessandria, grande teologo. E nel V secolo, in cui la Chiesa era spaccata, i Nestoriani, i Duofisiti, eccetera, eccetera, si discuteva quante nature avesse il Signore: una, due, tre, nessuna. Vabbè, al di là di questo, auguri a chi si chiama Cirillo. Oggi nasceva 50 anni fa il Bancomat, nasceva naturalmente a Londra, era della Barclays Bank. Pensate, cose che uno immagina, ci sono sempre state, non è vero. Oggi nel 1980 esplodeva nei cieli di Ustica un DC-8, quello dell'Itavia, con 31 vittime e 81 vittime, 13 ragazzini, ancora oggi non ne sappiamo niente, insieme a tanti altri misteri della storia italiana. Lo ricordo come se fosse ieri, nell'assolato pomeriggio in cui le immagini facevano vedere i corpi che galleggiavano ripresi dagli aerei e dagli elicotteri. Dio mio, Dio, Dio mio, Dio mio. Nel 2007 finivano gli anni di Tony Blair in Gran Bretagna e oggi stanno già finendo quelli di Theresa May. A leggere i giornali britannici si stanno già preparando due o tre possibili nomi per sostituirla, quindi la trattativa della Brexit è sempre più problematica. Intanto ha tirato fuori 1 miliardo di sterline per avere il consenso dei nordirlandesi e non piace molto né nel suo partito né fuori questa cosa del prezzo. Sono 500 sterline ciascuno per gli irlandesi del nord, quindi come vedi un prezzo un po' elevato. Beh, insomma, ogni popolo ha da pagare una però quota, secondo me la data vera è che la storia poteva cambiare nel 1544, quando il grande pirata corsaro musulmano, in realtà un greco che poi diventò capudan, cioè l'ammiraglio ottomano, tentò di mettere a ferro e fuoco Salerno, Amalfi e Minori. In realtà Kair al-Din Barbarossa per 30 anni ha fatto nel Mediterraneo occidentale, in tutte le coste italiane, quello che voleva, se non che Salerno, invece Amalfi e Minori hanno resistito. E chissà se diventavano invece Emirati, non era meglio? No, De Luca io me lo vedrei benissimo. No, non penso. Io penso che sarebbe un emiro perfetto, a fare lo sceicco, insomma. Un vero emiro, insomma. Però detto tutto questo, no, battuta, ma comunque no, ricordiamoci che appunto in quel secolo le coste italiane furono razziate tutte, ma tutte, da quando dico tutte significa decine di migliaia di schiavi venduti sul mercato di Tunisi e centinaia per esempio di suore mandate da Kair al-Din come vergini in regalo al sultano. Però tu attenta a evocare De Luca così, perché poi De Luca ci sente. Ci taglia la testa. Viaggio premio comunque. In Iran. Ah, eccolo, appunto, vedi che... Devi stare attento. Diciamo, auguri a Isabella Gianni, che quando ero giovane mi faceva palpitare, ma anche adesso. Dicendo così vuol dire che è vecchia. No. No. Insomma. No, stai dicendo che sono vecchio io. No, questo è, caro mio fratello, io ti difendo sempre, tu mi trafiggi al cuore. No, vabbè. No, pensa che quando ha fatto Adele H era giovanissima, non aveva 20 anni nel 65. E quando... quanti anni ha? E te? Vabbè, insomma, adesso non... Se non aveva 20 anni nel 75, più o meno ci si arriva, però ecco. Non si dice, però insomma, alla sua età. 800 24 00 24. Sai che, Oscar, le notizie sui giornali sono sempre due: la politica con le poste amministrative e le banche. E questo, le banche, sì, più o meno sono quelle là. Allora, sulle poste amministrative effettivamente ha colpito un po' l'analisi, che peraltro è un'analisi che trapela sui giornali, non è che è un'analisi con tante dichiarazioni pubbliche di Renzi, a dire che poi guarda che è quello che ci ha detto ieri Ricci del PD, cioè se contiamo poi alla fin fine il PD ha vinto più comuni di quelli in cui ha perso, quindi a macchia di leopardo, non è vero che siamo sconfitti. E Renzi dice basta Pisapia, basta coalizioni, basta, ci vuole la rottamazione definitiva. Non so, che è però è anche vero che altri giornali, La Stampa fin da ieri, oggi in diffusione, dice in tutti i comuni 110 superiore ai 15.000 abitanti in cui si è votato, beh ne ha 30 in meno in tre anni Renzi, e centrodestra quasi l'equivalente in più. Quindi far finta di non vedere questo, la politica è sempre brava. La politica è sempre dopo le elezioni si possono vedere sempre, no? Come dice Antonio Polito sul Corriere, non si capisce. Ci sono tre problemi: uno riguarda il centrodestra e chi lo guida, uno il centrosinistra e l'interpretazione dei dati, il terzo Grillo e 5 Stelle, punto interrogativo. E poi c'è la questione delle banche. Oggi si registrano due elementi interessanti. Pado anche scrive al Foglio e dice: non è vero che non abbiamo rispettato le regole europee. Si possono dare aiuti di Stato, non è un regalo, non abbiamo distrutto l'Unione Bancaria Europea. E Messina, il numero uno di Banca Intesa, intervistato dalla Repubblica, anche lui dice non è un regalo, se non fossimo intervenuti lo Stato avrebbe perso 10 miliardi così subito di garanzie pubbliche che aveva messo lì e col fallimento. E forse non doveva mettere, quindi scusami, no, perché questa storia certo, è per cui se lo Stato mette dei soldi, mica li vogliono far andare in fumo, mettiamone degli altri, capisci che è un paradosso, no? Sì. E quindi Messina dice non è il Natale di Banca Intesa, non è vero che abbiamo preso i soldi, anzi c'è addirittura la descrizione di una gara di cui non abbiamo mai avuto traccia, e però dicono che c'è stata la gara. Che succede? Vabbè. Una delle tue risate che poi la gente vuole scaricare e mettere come suoneria del telefono. La struttura delle grandi imprese italiane è tenuta per i cordoni. Cordoni del debito dalla prima banca italiana. Questo spiega perché i gruppi editoriali italiani, con rare eccezioni, non possono che applaudire. Mi dispiace, io la penso così. E soprattutto propongo una chiave di lettura, visto che tutti i grandi giornali sono a favore. Oggi Francesco Giavazzi dice addirittura che bisogna ringraziare i Veneti, devono ringraziare. Ringraziamo Gentiloni, Renzi, hanno finalmente risolto. Non sono d'accordo con la sola parola di Francesco Giavazzi, ma non mi stupisce. Però faccio notare solo una cosa per non sembrare iperpolemico: se uno va a guardare i giornali italiani, tutti favorevoli all'operazione con gli argomenti che hai detto più o meno, cioè la continuità, preservati i depositanti, i dipendenti, poi non è vero che sono tutelati i dipendenti, ma di questo ve ne renderete conto dopo. Però se mettiamo invece quello che c'è scritto sul Financial Times, sul Wall Street Journal, su Bloomberg, ecco, diciamo, la stampa internazionale ha un approccio diverso. Non lo trovi questo, non li trovi proprio. Allora mi porrei una domanda, cari ascoltatori: com'è che visti da fuori sembriamo su queste vicende bancarie in cui i regolatori hanno detto per un anno e mezzo l'esatto contrario di quello che è avvenuto, che erano solide, solventi, si dovevano quotare eccetera eccetera, vi hanno detto che Atlanta le salvava, com'è che da fuori ci vedono in un modo così invece completamente diverso, perché si ricordano tutto quello? Noi improvvisamente giornalisti facciamo finta che i regolatori italiani per un anno e mezzo non abbiano fatto i pasticci che abbiano fatto. Ok, io mi rassegno, sono in minoranza, però mi accenderei un campanellino, perché se da fuori tutti i più grandi autorevoli giornali ci vedono in maniera critica, forse una qualche... leggeteli, provate se avete voglia, ci sono oggi commenti di editoriali, Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg, l'ho trovato online sul computer, andate a vedere cosa dicono di noi. In tutto politica e banche, e banche venete in questo caso, per quel che riguarda la politica si è detto la vittoria del centrodestra. Certo, oggi noi ci vogliamo concentrare su due persone che dal punto di vista elettorale sono state sconfitte alle urne. Intanto salutiamo Massimo Bitonci, che è stato sindaco di Padova, ci ha riprovato ma è stato sconfitto. Bitonci, grazie per essere qui buongiorno, con noi, perché insomma è facile parlare quando si vince, lei giustamente le diamo atto, è qui nonostante una sconfitta elettorale. Però Bitonci, certo. Bitonci è un combattente, in politica a volte si vince, a volte si perde. Non è finita qui, non è finita infatti qui. Mi aspetto sinceramente mi aspetto che cioè, cosa farà il consigliere d'opposizione, combatterà, ecco, ma politicamente parlando? Ma intanto è stata una sconfitta di 3.000 voti il 25 giugno. Io ho continuato a ripeterlo durante questa campagna elettorale, non capisco perché non si voti in periodi in cui non ci sono problemi, in cui la gente non va al mare, ma che si voti a maggio, che si voti in autunno, non riesco a capire perché bisogna arrivare fino quasi ad agosto per votare. Ma perché più voti avrebbe vinto lei? Chi? Non si può sapere questo. Ma comunque va a votare sempre le amministrative sono le votazioni più importanti, anche le elezioni dirette del sindaco è l'unica elezione poi che funziona. Si cerchi almeno di dare una mano ai cittadini e fare in modo che non ci sia un continuo calo, che è vero che c'è un problema di disaffezione, ma il periodo in cui si è votato questa volta, cioè a ridosso quasi di luglio, è veramente vergognoso. Cioè, non si può pensare che si arrivi a votare quello che è il rappresentante della città in un periodo in cui magari le famiglie sono al mare, la gente è via, che deve tornare apposta, ci sono persone che hanno preso il volo d'aereo per tornare a votarmi, ma è una cosa pazzesca. Comunque 3.000 voti abbiamo perso, devo dire, forse l'unico caso in Italia contro una coalizione molto ampia, ampissima, che va dall'estrema sinistra fino anche a pezzi di Forza Italia e quindi a pezzi anche della destra, perché metà Forza Italia era dall'altra parte. Quindi insomma non una grande prova di coalizione di centrodestra unito. Ma no, infatti il problema che sarà, che c'è già da oggi, sarà la governabilità, perché all'interno comunque, pur di sconfiggere il barbaro Bitonci, si è dovuto trovare una soluzione dove in questo minestrone con tutti quanti dentro. Pensate che ci sono elementi di Rifondazione Comunista insieme a consiglieri comunali che la scorsa volta erano stati eletti con Forza Italia ed elementi della destra ex iscritti al Movimento Sociale, quindi siamo veramente agli estremi. Ha perfino un componente del Centro Sociale Pedro all'interno di questa maggioranza. Quindi per carità, hanno vinto. Hanno sommato, io pensavo non fosse possibile, perché in politica di solito non è così, sommare tutti i voti, invece li hanno sommati. Abbiamo avuto comunque un buon risultato in secondo turno, perché ho preso 5.000 preferenze più del primo turno, che ho chiuso al 40%, però si vede che non è bastato. Però Bitonci, cioè, lei è un po' in controtendenza, perché la Lega si dice è andata bene, anzi la eventuale unione centrodestra è sempre più attrazione leghista, questo facendo un po' sobbalzare Berlusconi, e qui invece abbiamo il leghista. I dati sono andati molto bene, cioè in realtà poi se guardiamo le preferenze, cioè la mia lista civica, la lista Bitonci, penso che sia l'unico caso in Italia, al primo turno ha preso il 25%, quindi ben 10 punti più del Partito Democratico che ha fatto il 15 a Padova. E cos'è mancato? Al sostegno? Cioè, lei rimprovera qualcuno, il sostegno di Salvini, il sostegno della Lega? No, ma per quello no, la Lega poi ha avuto un risultato anche migliore rispetto a quello del 2014. Il tema sicuramente è stato quello che è successo a novembre, dove due consiglieri di Forza Italia sono andati dal notaio per far cadere l'amministrazione, vede che poi la gente non ha... Cioè si è spaccata la coalizione. E una parte dei voti di centrodestra sono andati sul candidato della sinistra, che peraltro è stato anche avvantaggiato, perché ha avuto anche, per carità, io gli ho fatto gli auguri fin da subito, abbiamo sospeso anche la campagna elettorale perché ha avuto un'ischemia. E per un periodo di tempo è stato anche in ospedale, quindi è stato anche difficile fare i confronti, in realtà ne abbiamo avuto solamente uno, e quindi non c'è stata neppure la possibilità di confrontarsi tra candidati, che è una campagna elettorale che è molto strana, e forse anche l'effetto pietismo ha fatto la propria. Sai Oscar, che per Bitonci c'è anche un grande colpevole per questa sconfitta sua, il nostro David Parenzo. Parenzo festeggerà, però devo dire che ha rifiutato il confronto, quindi questa è una cosa gravissima. Adesso mica Parenzo si deve confrontare a un giornalista. Ha lanciato il confronto Bitonci Parenzo, e poi quando gli ho detto va bene, accetto, si è rifiutato. Coniglio Parenzo, lo dico. Esatto. Coniglio Parenzo, no dai, scherziamo, nostro. Vabbè, comunque questa è la realtà. Comunque la vedremo poi sui fatti, perché vedremo poi sui temi scottanti della città, sui temi legati anche alla sicurezza, come le due anime di questa nuova e composta maggioranza si comporterà. Però adesso, rifondazione insieme all'MSI, voglio vedere insieme all'ex MSI. Esatto, allora la sinistra che vince c'ha questo problema e vedremo, infatti con Alessandro nei giornali di oggi si capisce, perché le analisi del centro-sinistra sono, se si leggono gli articoli ispirati da Renzi, Renzi due punti, con la sinistra si perde. Quegli articoli invece ispirati dalla sinistra, Pisapia e il variegato fronte, con Renzi si perde, quindi questo problema a sinistra esiste. Però se c'è un messaggio nazionale, Bitonci, da desumere da quello che abbiamo capito ascoltandolo, però ci dica lei se è giusto o meno, che riguarda invece centrodestra, lei dice qui tutta la vicenda è nata dalla divisione che hanno fatto per mandarmi a casa e non si è più risanata nella città, quindi il messaggio nazionale da Padova è: destra, pensaci bene, perché quando ti dividi perdi, così? Ma io l'ho sempre detto anche prima che arrivassimo a questo infausto risultato, cioè nel senso che il centrodestra deve andare assolutamente assieme, ma cercare anche di attrarre voti poi al centro, perché c'è poi tutta quanta un'area forse anche di non voto che deve essere attratto al centrodestra, ma non può non andare assieme Forza Italia, la Lega, Direzione Italia, Fratelli d'Italia e altri movimenti di destra a centrodestra. Non esiste questa cosa. Se si vuole tornare a governare il paese e non perdere le città, la coalizione deve essere assolutamente, assolutamente unita. Unita. Per concludere, Bitonci, lei ha un'idea da Veneto delle questioni delle banche venete? Cioè, anche se è di Padova, non Vicenza, ma insomma, Banca Veneta fa bene il governo? È contento che i soldi pubblici arrivino una volta al Veneto, visto che una delle lamentele del Veneto è questa? Ma sì, certo, io penso che ne abbiamo discusso da tempo, cioè, la penso anche come Giandino. Molte volte insomma lo ascolto anche, e il tema è che bisognava accorgersene prima, questo è il problema, cioè io mi sono sempre chiesto ma come si fa dopo arrivare a questo punto. Io ho avuto amici, parenti, imprenditori, io sono anche dottore commercialista, quindi clienti che insomma che hanno perso soldi. Tutto hanno perso tutto, perché alla fine c'era un sistema per cui anche gli imprenditori erano obbligati certo, ad acquistare. Volevi l'impiego, beccati l'azione a valore non di mercato. Certo, e come dice lei, ma infatti casi incredibili di aziende in difficoltà hanno dovuto acquistare le azioni per avere poi i finanziamenti e alla fine hanno perso tutto, ma è una cosa incredibile. E una volta che i buoi erano scappati, cioè non si è fatto e si è arrivati a questo, la soluzione prospettata le piace oppure no? Beh, ma cioè una soluzione bisogna trovarla, non so se questa è la strada giusta. Comunque hanno già perso tutto, cioè i risparmiatori e le imprese hanno già perso tutto. Io non saprei quantificare, ma le risorse che sono state buttate via, ecco, e le famiglie completamente distrutte, pensionati che hanno perso tutto, imprenditori che sono falliti per questa cosa. Guardi, Bitonci, lo dico io, solo l'azzeramento totale del valore iniziale a cui hanno comprato le azioni, spesso col meccanismo che diceva lei, solo quello incamerato da 200.000 rotti veneti, imprenditori, eccetera, eccetera, e di 11 miliardi. In più ci abbiamo messo il sistema di tutte le banche che hanno dato i soldi da Trump, altre 3 e 4, e sono spariti anche quelli. Questo per dare l'idea, e sto parlando solo di questo, solo sì, di questo. È una manovra finanziaria. Per capirci, un impatto insomma, devastante. Sì. E nel frattempo loro continuavano a dire che le banche non solvibili, sane, che sarebbero fuse, quotate. Gli stessi che adesso dicono, batteteci le mani perché siamo bravi. Vabbè, tutto qua. Ma dov'era il sistema bancario italiano? Dov'erano i controlli? Cioè, questo penso che dobbiamo chiederci tutti. E alla fine qualcuno dovrà pur pagare per quello che è successo. Chi lo sa? E questo vedremo. Ci sono che li dobbiamo ringraziare. Ci sono in procura delle. No, immagino si riferisca a quelli passati. Sono in procura delle azioni. Vedremo poi. Insomma, con quale anche velocità. Zonini, intanto, sai, nulla tenente, quindi nessuno gli ha potuto fare neanche gli espropri giudiziari. Quindi vabbè. In ogni caso, guardi che c'è un ascoltatore da Padova. Così prima di salutare. Paolo ci chiama da Padova. Buongiorno. Buongiorno a tutti, sì. Ecco, niente, solidale con e dispiaciuto per quanto insomma per il risultato delle elezioni. Sono d'accordo con la lettura che dà il dottor Bitonci, però io mi ricordo che ho avuto l'occasione di incontrarlo pochi giorni prima delle elezioni in una serata in via Solcini a Padova e gli ho posto una domanda che era un po' anche un'affermazione. Gli ho detto: guardi sindaco, secondo me o lei passa il primo turno o al ballottaggio sono tutti contro di lei, quindi faranno qualsiasi cosa per farla perdere. Alla luce che non è che sono un indovino né un esperto politologo, chiedo a Bitonci, potendo tornare indietro, ritiene di aver sbagliato qualcosa nelle strategie di apparentamento, di dialogo, di rapporto, e potendo tornare indietro farebbe qualcosa di diverso non so, quello che ha fatto? Bitonci ha sbagliato qualcosa, quando si perde qualcosa magari si sbaglia, però Bitonci... Ma certo, cioè, il tema è stato anche quello di una campagna elettorale che non augura nessuno di 7 mesi e mezzo, perché è stata una campagna elettorale lunghissima, estenuante, dove se si votava dopo 3 mesi sicuramente c'era una vittoria senza nessun problema, però con 7 mesi e mezzo è tutto un sistema contro, perché ricordo anche l'ascoltatore, lo sa benissimo, io ho avuto un giornale, adesso io non sono di quelli che spara addosso i media, anzi io li utilizzo spesso per veicolare i miei messaggi, però ho avuto un giornale che fa 18.000 copie, Il Mattino di Padova, che ha fatto una guerra spietata a Massimo Bitonci per 3 anni, sì. ma anche con notizie anche false. Cioè, ha preso una linea politica di un certo tipo, quindi non è stato facile combattere a Padova quando esce comunque un quotidiano tutti i giorni e fa 18.000 copie. Vabbè, e l'apertura è sempre gli articoli contro, quindi... quello ci ha molto svantaggiato, c'è poco da fare. Va bene, insomma, adesso poi vediamo, non abbiamo qua il direttore del Mattino di Padova, ma non per una difesa di categoria, ma per capire che cosa replicherebbe. In ogni caso, dai, Massimo Bitonci, grazie per essere stato con noi, ex sindaco di Padova, della Lega, dice che combatterà, rimarrà politicamente, tra poco... E il tempo ci farà vedere che avviene. Esatto, avremo gli ascoltatori, chiamateci sulle banche, sulla politica. Pensate che Renzi abbia ragione quando dice non abbiamo perso, torna Berlusconi. Ma io devo farti una domanda però, questa pagina di pubblicità che c'è su tutti i giornali, polli allevati senza antibiotici, io credevo fosse un manifesto elettorale, invece poi è la Coppa, secondo me invece parlano gli italiani, polli allevati senza antibiotici. Però guarda che c'è il disegno proprio di un pollo. No, ma è tricolore però, quindi secondo me sono gli italiani. La Coppa sta dicendo i polli siete voi e venite da noi. Però c'è un messaggio subliminale, polli allevati senza antibiotici. Vabbè. Italiani, siete polli. No, esatto. non credo che sia questo il messaggio. No, rassicuriamo la Coop, naturalmente. Però, insomma, effettivamente vedo dei bei polloni. Non so, c'è un messaggio equivoco. Polli allevati senza antibiotici. Novax. No. Chiamateci su Berlusconi, Salvini, Renzi, il Movimento 5 Stelle. Quello che volete, la lettura politica, chiamateci sulle banche. Tra poco avremo un altro sindaco sconfitto di centrodestra. Abbiamo chiamati volutamente due di centrodestra sconfitti, perché si dice il centrodestra insomma, ha vinto. Vediamo, andiamo a vedere invece una lettura in controtendenza. Il sindaco che voleva diventare sindaco a Lecce, Mauro Giliberti, invece è stato sconfitto. Tra poco. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, caro Oscar, sono le 8.45, tra l'altro il bollettino meteo della politica alle 6 del mattino di oggi diceva che si torna a votare, poi alle 15 faremo il successivo bollettino aggiornamento, alle 21 quello definitivo di giornata. Ma si torna a votare, comunque un giorno si voterà, sai, in Italia non mancano mai le votazioni. Si torna a votare in fretta. Però lo sai che insomma, no, ma come fanno a tornare a votare, visto, se leggi le analisi del centrosinistra? Qualcuno scalpita. Però alle 6. Alle 11 vedremo. Esatto. Siamo un po' come le opinioni sul cambio del clima col fattore antropico. Sì. C'è chi dice sì, c'è chi dice no. Esatto. Vai a vedere bene le equazioni dell'IPCC e dici: beh, come fai a fidare? Insomma, è le solite maniere italiote di vedere le cose. Però sì, vogliamo ricordare stasera che c'è un evento. Sì. Dai, stasera prego. Sì, c'è la Wondy Night. Solo che è tutto esaurito. Però ragazzi, ricordiamolo, c'è la Wondy Night al teatro del Pime alle 21. Alle 21. Se volete venire, magari c'è qualche ultimissimo biglietto. Qualche ultimissimo, però ne vale la pena. Grande causa, tutti, giusta a ricordare la lezione che Francesca ci ha dato, lo dico io da puro affettuoso sostenitore. Grazie, grazie. Ovviamente che cos'è? Insomma, sono tanti comici: Manera, Ornano, Luca Club, Scarlini, Vizzini, Chiodaroli, Gigi Ronk. Insomma, si ride. La formula è ridere, ma la causa è una vita resiliente e dignitosa per tutti, anche per chi ha la malattia. Questo. Certo. Dai, ci sono tanti ascoltatori. C'è Ruggero da Foggia che ci chiama. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Complimenti per la trasmissione. Sì, grazie Ruggero. Senta, allora, sto parlando con Alessandro. Sì, sì, no, era Alessandro, era Alessandro, io sono Oscar. Eccoci qua, entrambi. Prego, prego, prego. Ascoltiamo. Okay. Ascolti, io penso che io parlo di risultati della Puglia, sì. Lecce e Taranto, sì. Specialmente Taranto. Quando si parla di 1000 schede e un sindaco viene eletto per 1000 schede di vantaggio, secondo me puzza di imbroglio. Perché? Perché il tutto, io abolirei le trasmissioni prima e dopo della chiusura delle urne, perché io ho esperienza molta, ho fatto diverse volte il presidente di seggio, il tam tam, basta che giri il tam tam per una città con 100 seggi. Sì. Chiaro, basta giri il tam tam che dice ci servono 1000 voti o 2000 voti, 2 voti per ogni seggio. E che succede? Succede che fa vincere quello che ha vinto, per dire, a Taranto. Chiaro. Ma ho capito, ma perché? Cioè, se li comprano sti voti, no? Portano le persone a votare? Cioè... No, proprio quando vanno nella compilazione, cioè non è necessario che sbaglino sullo scrutinio, ma quando vanno a combinare i verbali, sì. È chiaro, invece di scrivere 20, scrivono 25. Ho capito, ma lei ci sta parlando di una truffa bella e buona. Ho capito, Ruggero. Ma secondo voi e si denunci? Io se fossi uno che ha partecipato alle elezioni a Taranto, io mandrei contesterei. Va bene, Ruggero, e lei è convinto che sì, insomma, si sono successe, succedono, succederanno queste cose, immagino, però non so, io mi auguro solo che nell'esperienza del nostro ascoltatore Ruggero ai seggi non avvenisse regolarmente questo, perché sennò poi, per carità, come Alessandro non mi stupisco di niente, però per carità, in quel caso verificare, succede, contestare, esatto, si contesti e si verifica in tutto il mondo, si fa anche in America, si contesta i voti, e quindi se c'è qualcosa che non va. Vittorio da Milano, buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi. Eccoci. Senta, io sono un ex dipendente della Popolare di Vicenza. Ah. La mia fortuna, sono riuscito a scappare prima che succedesse il disastro. Volevo far presente un paio di cose. Primo di tutto, nessuno ricorda mai che ai vertici della Popolare di Vicenza c'è un certo signor Monorchio. Bravo. E sappiamo tutti chi è. Bravo. No, non so se lo sappiamo tutto, se qualcuno non se lo ricorda, ex ragioniere generale dello Stato, sì. Espressione dei vincoli tra potere pubblico e grande banca. Quindi, ecco, ha fatto bene a dirlo. Altra cosa, era di dominio pubblico che tutte le volte che finivo l'ispezione della Banca d'Italia... Cosa succedeva? E ne sono state fatte tante. Sì. Succedeva che alcuni ispettori della Banca d'Italia non tornavano a Roma. Perché? Ma rimanevano a Vicenza. Bravissimo. Assunti dalla Popolare con stipendi faraonici. Bravissimo. Oltre al fatto delle pressioni che tutti hanno avuto da parte dei direttori d'area, dei capi d'area, di qui e di là, dovete vendere le azioni, se vendete le azioni altrimenti chissà che cosa succede. Eh già. E di tutte queste cose E bravo, dice, non si... dice di tutte queste cose non si dice, non si scrive molto, ecco. Si dice, non si scrive niente, ma la cosa che mi fa più specie è che tutti gli azionisti della Popolare di Vicenza, quando c'è stata la famosa assemblea dove avrebbero potuto iniziare l'azione di responsabilità nei confronti dei vertici, sì. Chissà perché la prima volta hanno votato tutti contro. Già. Allora, non è che per caso anche all'interno della bella Vicenza ci sia qualcosa che ha funzionato male o qualche scambio di interessi per cui hanno preferito tutti dire no? Donin poverino è un santo, per cui perché andare contro lui e tutta la sua truppa? Punto di domanda. Insomma, lei, una bella telefonata, sì, io ne sono molto grato. Ci ha posto una serie di con elementi di fatto. Sì. In tutto questo c'è Beppe da Vicenza, buongiorno. Oh, devo staccare viva voce un attimo. Beh sì, insomma. Pronto, eccolo qua. Eccoci qua. Sì, buongiorno, ascolti, io volevo solo sapere, essendo piccolo azionista della Banca di Vicenza, Allora, uno, che fine faranno tutti gli azionisti, se riusciranno a riprendersi qualcosa, secondo voi? Due, se il discorso mi sembra che sia un regalo a Banca Intesa, fondamentalmente, perché alla fine l'unico che ci guadagna è Banca Intesa. Terza cosa, tutti i responsabili che hanno spostato tutti i loro beni in corso d'opera, se lo faccio io, perché a me vengono a prendermi a casa e mi dico: guarda, tu non puoi fare una cosa del genere, mentre al buon Zonin, al buon Sorato è stato permessa la cosa e nessuno prende, qualche magistrato in Italia non si prende la briga di andare a verificare questa cosa. Ma in realtà, insomma, dal punto di vista delle procure, insomma, ci sono delle inchieste aperte. Sì, certo, ripeto, mentre per altri sono scaccati, sì, scattati subito il sequestro giudiziale, a Zonin zero. Mm. Però detto questo... No, ma è chiaro, beh, per la Vicenza ci pongono le domande retoriche. Allora, come azionista, no, attualmente non è previsto. Vedremo, perché secondo me nasceranno dei contenziosi di massa per via di come è scritto il decreto, che contiene 37 deroghe fondamentali al testo unico bancario, al codice civile, sulla seniority dei titoli, sulla procedura di gara e così via. Vedremo. Per gli azionisti attualmente però no, mentre chi ha titoli senior sta a posto, e persino per i junior, chi li ha avuti a retail, clientela retail, dovrebbe, e stiamo parlando di un 20% del totale dei junior, dovrebbe essere a quel punto ristorato. C'è un accordo anche in parte da Banca Intesa, però per gli azionisti no, e gli azionisti che hanno per anni creduto, preso titoli a un valore non di mercato e poi hanno assistito per anni al fatto che venissero fatti scendere, anche lì con decisioni autonome, con il regolatore che diceva che la banca stava in piedi, era sinissima tutte le volte eccetera, capisco l'amarezza, perché voi vi siete fidati di chi vi invitava anche nell'ultimo appello ad accettare un piccolissimo ristoro, dicendo: ma si resta in piedi, si scommette sul futuro. Sono gli stessi regolatori che adesso hanno accettato senza colpo ferire e inneggiano al fatto che le banche erano fallite, non è vero che erano solvibili, non è vero che erano sistemiche. È amaro fidarsi di questi regolatori e voi ne portate le conseguenze. C'è anche Fabrizio da Milano, con cui concludiamo questa prima parte, ma andiamo avanti fino alle 9.30, ricordate. Fabrizio, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Io volevo fare una riflessione, avete chiesto anche interventi sulla politica, no? Io spero sempre che i moderati di entrambi gli schieramenti, come dire, la vincano. Però volevo... Come chiede Berlusconi per il centrodestra, per esempio. Coalizione, sì, Berlusconi moderata. E Renzi, secondo me, sono le due leadership che potrebbero guidare il paese. Ma l'altro giorno guardavo, l'ho visto su Sole 24 Ore, un sito dell'Istituto Bruno Leoni che parlava, sì, di questa proposta della flat, sì, tax. Sì, ci ho fatto anche la trasmissione di ieri, ci tornerò sabato e noi insisteremo, è la nostra proposta. Ah, è fantastico. Secondo me questa dovrebbe diventare l'unica, l'unico argomento, tax, perché se vogliamo dare un futuro al paese bisogna ripartire da lì, perché tanto siamo in un sistema capitalista, le imprese devono funzionare, finché la pressione fiscale così non funzionano. Poi no, la ringrazio di averlo letto. Voglio dire agli ascoltatori, ma non è il momento di approfondire, che è molto progressiva, è molto progressiva, non è aliquota unica, regalo ai ricchi. Secondo, si concentra sugli incapienti e chi ha meno, perché c'è un'imposta negativa e un minimo vitale con trasferimento monetario, quindi secondo me è più efficiente del reddito di cittadinanza, ma affronta lo stesso problema. Terzo, si pone il problema anche di come finanziare per chi ha di più i servizi, a cominciare dalla sanità, con un ticket in più. Quindi insomma non è quello che molti si possono aspettare, comunque non è il momento adesso approfondire su questo. In ogni caso, dopo il giornale radio delle 9 siamo ancora qui, state con noi, parleremo anche di altri temi. Siamo un paese in cui c'è qualcuno che prega perché piova, però questi giorni mi pare che qualcosa, esatto, sta avvenendo, vedi che le preghiere forse sono efficaci, hanno pregato bene, non sono stati ascoltati, chi lo sa. Tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sui ritardi con cui procedono le attività per la ricostruzione delle zone del centro Italia colpite dai terremoti dello scorso anno, giunge oggi una notizia che riaccende un barlume di speranza per un'accelerazione degli interventi. È infatti in arrivo 1 miliardo di euro destinato alle famiglie e alle imprese per gli interventi che hanno a che fare con le opere di ricostruzione privata. La somma viene messa a disposizione dal Ministero dell'Economia attraverso un prestito che viene erogato dalla BEI, la Banca Europea per gli Investimenti. Queste risorse saranno trasferite alla Cassa Depositi e Prestiti e poi finalmente attraverso il sistema bancario i finanziamenti arriveranno appunto alle famiglie e alle imprese. Il vantaggio è che grazie a questa modalità i fondi dovrebbero essere disponibili in tempi molto rapidi, così da recuperare un po' del tempo perduto. I fondi appunto serviranno alla messa in sicurezza sia delle abitazioni danneggiate sia delle strutture produttive come capannoni oppure le stalle. Quindi chi ha sostenuto deve sostenere queste spese, potrà chiedere di accedere ai fondi attraverso una procedura semplificata, dovrà far certificare il danno subito, presentare questo documento alle banche che poi erogheranno il denaro ad avanzamento dei lavori. I finanziamenti saranno a fondo perduto, quindi imprese e famiglie non li dovranno restituire. Intanto, e sempre con l'intervento della BEI, un altro miliardo di euro sarà presto destinato al ripristino, al recupero degli edifici pubblici. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. "24 Mattino, attenti a noi due". Siamo in onda fino alle 9.30, caro Oscar, eccoci qua, sono eccoci le 9.05 minuti. Eccoci qua, siamo interrogati a lungo se siamo anche noi polli senza antibiotici della COP. Messaggio criptico della COP, secondo me, è la reazione al fatto che ha perso la sinistra. Questa è la mia opinione. Siete dei polli, sai com'è? È così. Sono sempre gli italiani che sbagliano quando si vota. Insomma, sì. Allora, tra poco parleremo anche di qualcosa, magari di un po' di simpatico, di, come dire, di peculiare italiano, la credenza, l'idea che pregando magari arrivi un po' di pioggia, ma insomma lo faremo con alcuni ospiti, tra poco vi spiegheremo tutto. Però ci sono gli ascoltatori, intanto vedi che continuano a chiamare sulle banche, caro Oscar. Francesco da Macerata, buongiorno. Francesco, buongiorno. Eccoci. Buongiorno, io sono un commercialista e lavoro a Macerata. Sì. E con Veneto Banco ho avuto un rapporto pessimo nel 2014 e nel 2015, quando le banche stesse, per garantire quelli che sono i mutui che davano alle aziende, li obbligavano all'acquisto di loro azioni per gli aumenti di capitale. E poi ci siamo trovati nei bilanci dell'anno 2015 a dover svalutare ed azzerare tutte queste poste e a perdere centinaia di migliaia di euro che fisicamente abbiamo regalato a Veneto Banca e che ora non vedremo più. Ci sono addirittura delle aziende che a causa di queste perdite hanno perso il capitale sociale e si ritrovano a essere in liquidazione. Tutto qui. Va bene. Va bene a ricordarlo, e fa bene che per anni i regolatori hanno consentito che questo avvenisse, perché sorridevano quando glielo dicevi e dicevano: ma che il canale di funding bancario sicuro e che costa meno alle banche. Questo insomma l'abbiamo detto, che la situazione è stata generata così e che poi adesso chiaramente in questa situazione, almeno a leggere dalle parole del ministro Padoa, non si poteva fare altrimenti per non mandare sul lastrico famiglie. Certo, commessi non... tanti errori, si risolve con un altro errore più grande? Mia madre mi prenderebbe a schiaffi se gli avessi mai proposto di fare una cosa simile. La mamma di Oscar. No, perdona, figurati se ti dice: hai rotto una cosa, ma adesso per rimediare dovrò per forza romperne un'altra. Vieni qua che ti rompo prima la testa, così ti ragioni un po' meglio. C'è Sergio che ci chiama da Milano, buongiorno Sergio. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Volevo lanciare una provocazione, uno slogan: Consob criminale. E gli italiani hanno l'anello al naso, ma sono dei polli. E vi spiego anche perché. Allora, sui polli abbiamo capito, però attenzione alle parole. Insomma. Certo, ovviamente è una cosa bella detta... provocazione. È una provocazione. Insomma, è una provocazione, l'ho detto apposta prima. Vegas, non ci mandare alla finale. No, esatto. No. Perché le autorità. Partiamo prima con Monte dei Paschi, poi con tutte le altre banche, i consorzi, eccetera. Adesso queste altre due banche mi hanno fatte rovinare una valanga. Io volevo sapere dov'è che stavano controllando. Ci sono persone, autorità che dovrebbero garantire gli italiani. Sergio, ma e gli italiani continuano a pagare. È la domanda, il conto. Tutti che tornano su questo tipo di domanda, cioè in varie salse, ma il concetto domanda è questo. Io mi ricordo che a Zonin, Banca d'Italia, voleva far prendere Banca Etruria, era l'estate del 2014. Ricordatevelo. Ah, comunque, insomma, gira e rigira il concetto di tutti, cosa si è fatto fino adesso, torna con varie sfumature, quella di Sergio un po' aggressiva. Sì, un po' aggressiva, però la Consob è quella che vigila sulle regole del mercato. Quindi... In ogni caso, caro Sergio, grazie anche a lei per l'intervento. Continuate a chiamarci 800 24 00 24. Devo dire che la politica e le amministrative, a dimostrazione del fatto che secondo me poi gli italiani della politica chiacchierata sono frantumati, cabassissimi, direbbe Camilleri. Però insomma vedi che poi quando si toccano le cose più che vanno nel portafoglio stiamo parlando di vicende che toccano centinaia e centinaia di migliaia. Ma se apri le prime 10-15 pagine del giornale è tutto, e Berlusconi torna e va con Salvini non torna, si sposta. Stai criticando i grandi direttori di giornali? Sto dicendo che da anni, facendo la segna stampa, mi rendo conto che i giornali vendono sempre meno. Forse è una trasmissione per una nicchia, sempre così. forse c'è un motivo. Allora, caro Oscar, sai che abbiamo ospitato un sindaco, è qua con noi. Perché ci sono zone d'Italia, ne abbiamo affrontato la scorsa settimana dal punto di vista economico, che sono in siccità. Per la verità adesso la pioggia, almeno al nord, già al nord sta venendo, così già speriamo. Dai. Però ci sono zone dove la pioggia non arriva e ci sono anche decisioni che vengono prese, magari possono fare sorridere qualcuno, ma qualcuno invece ci crede moltissimo. Non so, salutiamo il sindaco di Roscigno, siamo in provincia di Salerno, si chiama Pino Palmieri, è con noi. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, grazie di ospitarci. Allora, caro sindaco, è vero che c'è stata la processione e, come ha chiesto il parroco, avete portato in processione, il parroco lo ha fatto, ma lei si è unito, la Maronna Quarola, cioè la Madonna, ci aiuti a capire che tipo di Madonna si tratta? Beh, è una Madonna che, un'usanza antica, un detto antico, diceva che quando usciva in processione pioveva. Era benefica per i terreni perché veniva a piovere, solo che ci abbiamo provato ma ancora nulla. Niente, mannaggia, ma è così grave la situazione lì nel Salernitano, Roscigno? Sì, la situazione è molto grave perché le sorgenti, con il fatto che non ci sono state precipitazioni, si sono ridotte in modo notevole. Purtroppo qui noi combattiamo tra siccità e dissesto idrogeologico, ecco. Perché poi molte volte il dissesto è proprio causato dallo sperpero di acqua che va sul territorio non controllato. Ci sarebbe da fare captazioni di sorgenti di acqua, però combattiamo sempre con i fondi che sono sempre pochi. Ma ci faccia capire, sindaco, ma lei ci crede a questa cosa della Maronna Quarola? Cioè, oppure dice, tanto voglio dire, per provarle tutte, che male fa? Guardi, oggi credo più nel Padre Eterno che nell'opera degli uomini, perché purtroppo anche sull'acqua c'è una gestione legata più a un poltronificio sui nostri territori che poi a risolvere i problemi. Capito, ma mica si risolve così, cambiate le persone, fate una battaglia. Cioè, ma è dura, è dura. La battaglia politica. Cioè. È dura, molto dura. E com'è stata sta processione? Beh, siamo usciti dalla chiesa, abbiamo fatto il giro del paese e siamo rientrati in chiesa. Cioè, invocando proprio... La popolazione al seguito, in processione, abbiamo fatto la tradizionale processione di paese. Invocando la grazia della pioggia, questo però... Sì. Con Don Nicola, il parroco del paese, che è chiaro, è sempre molto sensibile a queste cose. Quindi lui sa, è un prete, voglio dire, se non ci crede lui è un problema, sindaco. Il problema, c'è il nostro laico, cardinale. Io invece, io ho un profondo rispetto sempre che vedo mia madre. Certo, io lo vedo qua, mia madre con lo schiaffo qua sulla nuca, me la vedo sempre. Su questi però risolviamolo temi, perché il cattolicesimo popolare, la fede, cioè guarda che le processioni ci sono negli 8.000 comuni italiani tutti i giorni di tutto l'anno quasi, no, ma d'estate tanta però. Quindi questa è fede popolare, io non mi sento di fare l'ironia, è ovvio che da laico nazionalista dico la pioggia non proprio, cioè quando anche c'ha di meglio da fare che far piovere, no? Come dire, la Madonna. Però detto tutto questo, fede popolare, e che cosa ci dice poi questa fede popolare? Che in realtà, come si vede, il fenomeno spesso c'è stato nei secoli e noi dimentichiamo, crediamo che tutto stia avvenendo come sempre nell'arco della nostra generazione, 20 anni, 30 anni, il clima che cambia, non è vero. Da quando abbiamo un po' di serie storiche attendibili, non da troppi secoli, sul clima. Vediamo che ci sono state ondate di siccità, calore e di freddo in maniera molto più significativa di quanto la gente pensi. Anche da questo deriva poi il fatto che santi, madonne, eccetera, vengano invocate per la pioggia. Posso intervenire? Sì, certo, come no, sindaco. No, dicevo, guardi, no, noi viviamo in un territorio dove calcolo che il 60% della popolazione è ultra sessantenne, 65, e dove ormai c'è la rassegnazione e non si crede più in nulla. Ecco. La fortuna che c'è la Chiesa, che viene vista ancora come un riferimento importante, dove le persone nelle loro, nei loro disagi quotidiani, perché qui non è che abbiamo solo la siccità, qui abbiamo il problema di strade chiuse da 8-10 anni, abbiamo una disoccupazione paurosa, abbiamo un abbandono continuo del territorio, qui c'è proprio un abbandono dello Stato per quanto riguarda la gestione di questi territori. Noi siamo ormai prese di terra, i sindaci sono coloro che si assumono responsabilità più grandi di loro, non avendo risorse, e dove devono puntualmente trovare soluzioni, anzi inventarsi soluzioni, perché ormai no, una provincia inesistente dove è più a guardia della burocrazia e non a interventi veri per il territorio. Lei dice ci si appella anche alla Chiesa come istituzione, ma su questo non, Chiesa, c'è, ma non c'è dubbio l'importanza, voglio dire. Però sindaco, cioè il dato di fatto è che lei dice non piove da quando il 17 giugno c'è stata questa processione. Sì. Però l'usanza passata raccontava, i nostri anziani raccontano che questa era una Madonna che quando usciva portava l'acqua poi nei giorni di invece no. Sindaco, vi facciamo tanti auguri, insomma, in altri modi. Sindaco di Roscigno, Salerno, Pino Palmieri. Grazie per essere stato. Grazie a lei e buona giornata. Grazie. Guarda che, caro Oscar, però dobbiamo approfittare perché c'è può stare con noi solo qualche minuto. So che c'è un consiglio regionale forse in corso. È un assessore regionale del Veneto, tra l'altro all'agricoltura. Giuseppe Pan, buongiorno assessore Pan, buongiorno, grazie. Buongiorno a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Grazie di essere qui. Senta, perché anche lei è stata, prima c'era il sindaco di Roscigno, lì sono andati in processione per l'acqua, con la Maronna Acquarola, la Madonna Acquarola. Capito. Perché hanno accusato anche lei di essere andato in una, come dire, funzione religiosa per invocare in qualche modo l'acqua per il Veneto. Certo, ma mi stupisce tutto sto clamore da parte di consiglieri di minoranza, ma questa è una tradizione familiare lunga che io ho fin da bambino, quando i miei genitori mi hanno insegnato la devozione per Sant'Antonio. Io ogni anno vado, finché i legami mi reggono, da Cittadella dove vivo fino a Padova, il santo, e quindi è una questione. Tra l'altro si chiede anche la salute per la famiglia, ma in questo caso ho anche chiesto il nostro Veneto che faccia anche piovere, oltre a tante altre cose. Ah, quindi l'ha fatto, piovuto. Ecco, l'assessore Pan ci dice che l'invocazione a Sant'Antonio ha funzionato. Ride, scherza, però l'effetto è arrivato. È arrivato. Cioè, quindi lei ha fatto anche qualche danno in montagna, però effettivamente si è un po' anche piovuto, non tantissimo, però ha fatto, quindi ci ha dato un po' di grazia. Quindi io ho fatto a piedi, sì, da Cittadella a Padova. Lei dice come tradizione, però conferma che ha chiesto anche l'invocazione della pioggia quest'anno. Ma certo, perché no, era un momento anche difficile dopo un inverno che il Veneto ha visto non avere nulla come neve in montagna, in più i fiumi in secca, e la situazione in agricoltura anche difficile. È chiaro che però non solo le preghiere bastano, ma abbiamo anche fatto tutti gli incontri naturalmente di giorno con i consorzi di bonifica, quindi con i bacini montani, con le autorità di bacino, quindi abbiamo anche gestito amministrativamente la cosa, non solo però pregare, secondo me, da cattolico fa anche bene, e a quanto pare Sant'Antonio ci ha ascoltato. Oscar, che dobbiamo dire? Insomma, cioè, perché sa, molti messaggi arrivano, Oscar, a dire: ma come, insomma, l'affrontiamo dal punto di vista, ma guardi, della provvidenza? Ma non è che ha fatto solo la processione, no, dai, no, noi riduciamo tutto. Comunque, guardi, fa parte di una tradizione molto lunga delle rotazioni che avvengono in montagna. Noi c'è una tradizione agricola molto, molto chiara in questo senso: mettono ancora le croci sui campi, i nostri contro la grandine. Quindi è chiaro che è una riscoperta dei valori cattolici con cui io credo fortemente, e penso che sia, non ci sia niente di male da fare una preghiera in questo senso. Penso che tutte le tradizioni culturali della nostra Italia ce l'hanno, quindi da nord a sud, quindi sia giusto anche a volte anche evocarci ai santi e cercare comunque di risolvere i problemi dove noi amministratori dobbiamo risolverli quotidianamente. Ma assessore, ma lo dice qui a Oscar Giannino che ogni giorno inizia la trasmissione alle 8:15 e ci dice i santi del giorno, essendo iperlaico, però le tradizioni contano. Guardi, certo. Più alla fine conta. Poi lei sa che Sant'Antonio è tra i santi più venerati, evocati e venerati al mondo, quindi è chiaro che poi noi padovani è una grande risorsa culturale. Infatti noi non si preoccupa, perché in realtà Alessandro Milan oggi abbiamo dedicato tutta questa seconda parte della trasmissione proprio a voi amministratori, che tra le altre cose noi non vi stiamo mettendo in berlina dicendo che avete fatto solo questo, perché sarebbe ridicolo. No, l'informazione non ci piace. Avete anche manifestato questa cosa. Lui lo fa perché è cresciuto dai salesiani in oratorio eccetera, quindi finge di fare l'ironico, essendo lui per primo quello che poi si inginocchia. Lui c'è un inginocchiatoio, si inginocchia e prega tutti. Ma figurarsi, io so che prima della fine della trasmissione teniamo la conversione di Giannino, che da laico citerà i santi diventerà santo tra i santi. Non credo. Io mi tolgo anche un sassolino alle minoranze e dico scherza qui santi, ma lascia stare i santi, appunto. Come sempre, quindi aspettiamoci la battuta finale. È chiaro che il problema della siccità sarà comunque i cambiamenti climatici che sono in corso, sarà un problema anche nei prossimi anni sempre più attivo, quindi noi ci stiamo proprio tentando di trovare delle soluzioni in tutta la sistemazione di bacini montani. Perché il problema è che ci vogliono più invasi, perché tanto come si vede anno dopo anno il problema gli invasi anche li abbiamo, l'importante sarebbe pulirli dalle naturali sedimenti che ci sono, cercare di creare comunque una rete idrica come in agricoltura qui nel nostro Veneto di precisione, cioè portare l'acqua dove serve, non siano meno sprechi, tutti i lavori che noi stiamo portando avanti come regione, come assessorato all'agricoltura. E c'è un grande sforzo anche di finanziamento in questo senso, quindi sicuramente da una parte lavoriamo per cercare di formare e creare nuove infrastrutture, dall'altra parte ci avvochiamo anche i santi, che ci fa solo che bene. Fa solo bene. Va bene, assessore, noi la ringraziamo, grazie per essere stato con noi, l'assessore regionale all'agricoltura della Regione Veneto, Giuseppe Pan della Lega, che è stato con noi. Va bene, caro Oscar, vediamo un po' i nostri ascoltatori, devo dire alcuni un po' duri a dire ci affidiamo solo ormai alla provvidenza perché i politici non sono in grado più di risolvere. Ma attenzione, il sindaco Salernitano non vi sarà sfuggito che abbiamo avuto prima, no? di Rossigno. Ha citato, è stato molto rispettoso perché è rispettoso per la Chiesa, quindi ha citato la Madonna, la Corona, ha citato i santi, non ha citato Dio, cioè non si è rivolto a De Luca, quindi ha citato Dio che in Campania attento a nominare De Luca, De Luca. Se tu convochi De Luca, guarda che De Luca poi di colpo interviene anche, basta citarlo. Non l'ha citato. Rispetto nei confronti di Dio è assoluto. Il nome di De Luca è come il nome di Adam. Bisogna stare attenti. Il tempo della cialtroneria è finito. L'abbiamo evocato e dall'alto del Monte Sinai scolpisce le tavole della legge. Risponde così. Vabbè. Rocco da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Voi volete veramente farmi buttar giù dal ponte? Neanche l'acqua, fa male. Io sono qui da Montebelluna, mi butto giù dal ponte di Vidor con sotto il Piave che è in secca. Ci fate ascoltare un sindaco che invece di occuparsi di problemi seri e costruttivi inizia come nelle antichità, nelle antiche civiltà, a invocare, a fare i falò per far piovere, e vanno via con la Madonna in giro per la piazza. Però Rocco, non è che è quel invece che è sbagliato, cioè ha fatto anche quello, non voglio pensare che abbia fatto solo quello. In certe regioni d'Italia usano dire che serve tanto quanto l'incenso per i morti, cioè niente. Il nostro assessore regionale qua del Veneto Ecco, l'unica cosa che dovrebbe occuparsi invece di fare richiamare la tradizione da nord a sud cattolica, che questo qui è, assomiglia molto più al paganesimo di tutti i popoli del mondo dall'inizio della civiltà, dovrebbe pensare a mettere a posto gli invasi, a fare le casse di espansione, perché è questo quello che noi ci aspettiamo da loro, non che vadano a fare la passeggiata da Cittadella a... Vabbè, insomma. Oh, abbiamo evocato un po' di sano, luterano e calvinista, critica al culto dei santi, sì, cattolico. Sì. Vedi che alla fine Giannino porta dove vuole il disco. Sì, esatto. Mamma, giù le mani. Giù le mani. No, infatti, mamma di Oscar, aspetti la fine della trasmissione per lo scappellotto quotidiano. Esatto. Luca da Napoli, buongiorno. Luca. Buongiorno, ciao Alessandro, eccoci. Ciao Oscar. Buongiorno, mi sentite? Sì, benissimo, benissimo. Prego. Luca. No, io quello che mi chiedevo, siccome insomma per quello che mi hanno insegnato di solito l'acqua deriva dalla neve che si scioglie, sì, come sono diversi anni che nevica poco d'inverno, credo che sia abbastanza normale il fatto che d'estate non ci sia acqua, cioè nel senso che insomma è prevedibile. Allora mi chiedo insomma se questi politici, anziché andare a fare processioni ad agosto o a fine giugno, insomma, si preoccupassero del fatto che probabilmente non c'è acqua quando in inverno nevica poco. Insomma, però Luca, a questa domanda la risposta che ci ha dato il sindaco era veramente polemica, ma era chiara quando dice che tutto ciò che nell'apparato pubblico sta a il processo di controllo, gestione, intervento preventivo e successivo sui problemi dell'acqua è un poltronificio, queste sono le sue parole testuali, e questo secondo me dice abbastanza del problema, che è il problema a cui ricondurre gran parte dello squilibrio idrogeologico italiano, che va da nord a sud, come si vede quando poi ci sono le precipitazioni autunnali, se ne scende la Liguria, le vittime, i morti, purtroppo è così. Se uno vede dai consorzi di bonifica agricola alle autorità che insistono insieme nelle competenze di questa roba, purtroppo non sono efficienti, e quindi quello che lei dice, che è sacrosanto in un paese ordinato, è ovvio che bisogna anno dopo anno accumulare più capacità di intervento quando manca l'acqua. Sì, e poi gli invasi però ci sono, ma vanno puliti, come appunto detto, e servono i soldi, perché poi insomma le questioni... Vale, ci sono, però nella parte media e alta, per esempio, del bacino del Po non ce ne sono abbastanza, perché esatto, quando ci sono siccità come queste particolari, cioè a giugno invece che più avanti, lo abbiamo anche ospitato, che ci ha detto noi abbiamo bisogno per esempio qui di invasi aggiuntivi. C'è Roberta che ci chiama da Padova, buongiorno Roberta. Buongiorno ragazzi, volevo soltanto una chiarificazione, un chiarimento, sì, in merito a tutti coloro che hanno in corso delle cause contro le banche venete. Non riesco a vedere nei giornali nessuna indicazione. Sono cause come la mia che stanno finendo, diciamo, anche credo positivamente. Adesso con la Bad Bank, piuttosto che con altri fondi, quando ci sarà la pronuncia del giudice, cosa succederà? Adesso Roberta, come il suo avvocato la potrà confermare, sì. Siamo in attesa di che cosa? Del decreto, dei decreti con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, stante il decreto legge già emesso e già vigente, emetterà un decreto particolare, cioè precisissimo, sulla indicazione di tutto ciò che passa alla liquidazione coatta amministrativa, tra cui però, nel decreto è chiarissimo, c'è anche tutto il precedente contenzioso del Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Quindi, come il suo avvocato le confermerà, a quel punto le cause intentate, non ancora arrivate a giudizio, ma idem se fossero andate in giudizio con esecutività ancora da avviare, si incardinano su la liquidazione coatta, e quindi voi andrete nella gerarchia dei crediti a cui la liquidazione, virgola, che durerà anni e anni, per essere chiari, perché l'esempio che vi fanno è quello della SGA del Banco di Napoli, che ne è durata 24 di anni, ecco, nella gerarchia di ciò che si recupererà dei crediti deteriorati a prezzi di mercato, tempi lunghissimi, eccetera, eccetera, c'è una gerarchia di creditori nella quale ci sarete anche voi. Bisognerà aspettare. Bisogna vedere i decreti, per l'appunto. quello che se cambia anche solo di una virgola salta tutto. Ma non cambierà. In ci sarà la fiducia. In fase di conversione. E anche se questi giornali italiani non dicono una parola. Una banca detta un decreto legge con 37 deroghe e tutti diciamo che bello. Allora, noi intanto diciamo che bello, andiamo a bere un caffè. C'è Lorenzo Nespoli in redazione con Elisabetta Fusconi, Chiara Compagnoni, La Peter Vescapè in regia, la Madonna Acquarola, la mamma di Giannino. Ci siamo tutti. Secchio, te lo scola. Ci siamo tutti. Dai, a domani, ciao.